Ragionate con calma. Togliete alla forza totale 980 N, quella sostenuta dalla corda, 400 N. Distribuite poi la forza rimanente in parti uguali sui due appigli.